Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Sapete che anche i paesi, le nazioni possono essere classificate come brand, come grandi marche in base a categorie che spaziano dalla notorietà alla qualità della vita, passando per il made in e il potenziale di business. È quello che fa ogni anno il Country Brand Index, un indicatore che racconta molte cose sulle trasformazioni in corso a livello globale. I centri commerciali cercano la ricetta per il rilancio, non più solo shopping, ma anche divertimento, sport, cultura e legame con il territorio. In bicicletta, in tutta Europa, dalla Spagna fino a Cipro, su piste ciclabili, vi raccontiamo come. E poi, com'è cambiata la memoria ai tempi della rete? Qual è il rapporto tra ricordo, esperienza e mondo digitale? Questo il tema della nostra riflessione finale. Io con quest'ultimo volo me ne vado in pensione. L'arco di durata di una vita creativa è di un decennio. Sia per gli artisti sia per i progettisti è lo stesso. Il tuo decennio, vivilo dando fondo alle tue forze. Con un omaggio ad Hayao Miyazaki, maestro dell'animazione, questo era Si alza il vento, il suo ultimo capolavoro. Sveliamo subito il brand paese più forte al mondo nel 2014, il Giappone. Così, secondo il Country Brand Index, firmato Future Brand, lo studio che analizza i paesi come se fossero grandi marche e stila una classifica in base a parametri quali sistema valori, qualità della vita, potenziale di business, tradizione, cultura, turismo e made in. Solo 18esima l'Italia, in discesa di 3 posizioni rispetto ad un anno fa, distante dalla top 10 che dopo il Giappone vede primeggiare Svizzera e Germania. Poi fuori dal podio ci sono Svezia, Canada, Norvegia, Stati Uniti, Australia, Danimarca e Austria. Trovate il link alla classifica completa sulla nostra pagina Facebook. Che cosa significa per un paese avere la forza di un brand? Quali analisi sotto traccia racconta una classifica del genere? Ne abbiamo parlato con Silvia Barbieri, Head of Strategy di Future Brand Italia. Il dato più interessante, diciamo, del primato giapponese è che è stato premiata l'unicità di un paese. Credo che sia una cosa estremamente interessante, anche perché ha in sé alcune indicazioni potenziali anche per l'Italia. Ciò che è stato assolutamente vincente è proprio quest'idea di un paese che è assolutamente unico, come direbbero gli anglosassoni, one of a kind. One of a kind per una serie di elementi che sono prima di tutto la cultura e la tradizione, l'heritage, e poi altro tratto sicuramente interessante, questa sua capacità di risollevarsi, e insieme anche certamente una produzione di tecnologia assolutamente ritenuta importante e di standard di riferimento nel mondo. Credo che ci siano tanti elementi importanti anche per l'Italia. Italia, 18esima, ai noi rispetto al 15esimo di un anno fa. Quale immagine rimanda la classifica del nostro paese, analizzando anche nel dettaglio le sottoclassifiche? Ma direi che rimanda l'idea di un paese che per fortuna riesce ancora a ancorarsi ad alcuni elementi molto forti su cui continuiamo ad avere il primato, di nuovo heritage e cultura, capacità attrattiva, potenziale anzi attrattivo nell'area turismo, e quindi riesce ancora in qualche modo a difendere quelli che sono proprio i core strategici dell'unicità italiana. Torniamo al tema dell'unicità, sarebbe bello che in un prossimo futuro fossimo noi a essere premiati, a essere riconosciuti di nuovo come quel paese così unico proprio per questi tratti da risalire nella classifica, e che invece su quelli che sono gli elementi di debolezza già emersi nelle precedenti classifiche in qualche modo continua a scivolare in basso. Quindi questa polarizzazione tra alcuni elementi di grandissimo valore e elementi invece di grande debolezza continua ad allargarsi. Quindi non è solo questione di notorietà? No, assolutamente no. L'ultimo dei problemi dell'Italia è la notorietà, L'Italia ha una notorietà molto forte nel mondo, continua a essere un paese con una grande capacità attrattiva. Quello che continua a mancare è in qualche modo il rimettersi in moto, il risollevarsi, ecco. Se dovessimo dirla come la direbbe il Giappone, la capacità di risollevarsi, cosa che peraltro ha premiato anche la Germania, cioè la Germania si posiziona seconda anche grazie di nuovo a questa sua capacità di aver unito due paesi, di aver dimostrato la possibilità di farcela, e forse a noi continua a mancare un po' questo. I movimenti interni alla classifica, quale tipo di trasformazioni raccontano? Quali cambi di equilibri tra paesi? Penso e mi riferisco all'avanzata dell'Asia, ad esempio. Esatto, la cosa interessante è che ovviamente avanza l'Asia, dove ci sono tanti paesi, un buon numero di paesi che riescono a posizionarsi come paesi a tutti gli effetti, possiamo considerare dei brand. Io trovo estremamente interessante la Corea. La Corea è un paese da tenere assolutamente sott'occhio, è anche cresciuta molto nella sua capacità di trasferire valore come origine di prodotto. Questo vuol dire che la Sud Corea oggi viene riconosciuta come un luogo dove i prodotti che lì vengono fatti hanno un valore aggiunto proprio per il fatto stesso di essere fatti in Corea. Il che dimostra la forza crescente di un paese. Questo ovviamente è molto dovuto di nuovo anche al settore tecnologia, a fenomeni come la Samsung, però credo che sia un paese da tenere sotto controllo. È interessante notare comunque in generale in termini di region come l'Asia appunto vede nascere paesi a grande fattore attrattivo. Curioso il silenzio del Sud America, dove ancora manca questa capacità di fare brand legato a un paese, qualche segnale di vivacità anche in Medio Oriente, ma certamente oggi l'area geografica che dimostra di avere la capacità maggiore di imporre nuovi riferimenti, che siano di business, che siano culturali, è certamente l'Asia. Perché dei 75 paesi presi in esame, leggo dal report, solo 22 si sono qualificati come veri brand in grado di determinare anche la preferenza dei consumatori verso i prodotti proposti sul mercato. Questo è un aspetto molto importante, spieghiamolo, raccontiamolo. Sì, diciamo che solo 22 paesi sono considerati tutti gli effetti dei brand, perché sono quei paesi che su tutti, diciamo, le dimensioni che vengono analizzate, che ricordo velocemente, cioè il sistema valoriale, qualità della vita, potenziale di business, tradizione e cultura, turismo e made in, riescono a coprirli tutti e sei in un modo significativo. Mentre ci sono paesi che sono molto sbilanciati nell'area così che ne abbiamo definita status, cioè nell'area del sistema valoriale, qualità della vita e del potenziale di business, ma magari sono troppo deboli su tutti quegli altri elementi che noi di nuovo abbiamo definito experience, cioè la cultura, il turismo, la qualità produttiva. E quindi se si è forti solo su un'area di questi non si riesce a essere, diciamo, ad avere quella rotondità necessaria a definire un brand. L'Italia è assolutamente, anche se abbiamo perso ancora qualche punto, però fortunatamente facciamo parte dei brand, comunque i primi top 20. Ecco. Ecco, quindi avere la forza di un brand come paese significa appunto dare forza anche ai propri prodotti. Assolutamente sì, direi che in questo caso c'è uno scambio reciproco, cioè un paese forte dà forza ai prodotti e prodotti forti danno forza a un paese. Direi che forse oggi l'Italia prende più forza dai suoi prodotti, perché abbiamo ancora dei casi di eccellenza assoluti in questo paese, e in qualche modo dovrebbe essere giunto il momento perché anche il paese dia di nuovo forza ai suoi prodotti, cosa che ha fatto storicamente sempre. L'urbanizzazione del mondo è accompagnata da cambiamenti che sono in rapporto con l'organizzazione dei flussi, le migrazioni e gli spostamenti di popolazioni, il confronto tra ricchezza e povertà, ma che più in generale possono essere considerati un'espansione del consumo. In questo senso aeroporti, centri commerciali, autostrade e supermercati sono dei non luoghi. Infatti, la loro vocazione principale non è territoriale, non è di creare identità individuali, relazioni simboliche e patrimoni comuni, ma piuttosto di facilitare la circolazione, e quindi il consumo, in un mondo di dimensioni planetarie. Così, nel 1992, l'antropologo francese Marc Auger descriveva i luoghi del consumo, allora in forte espansione come i centri commerciali. Una definizione questa dei non luoghi su cui il mondo del retail non ha mai smesso di interrogarsi. Oggi, per contrastare la crisi, il settore punta al retailtainment, shopping e intrattenimento insieme. Parola chiave dell'ultima edizione del MAPIC, la fiera dell'immobiliare commerciale che si è appena chiusa a Cannes. In vetrina c'erano i centri commerciali, i mall e gli outlet tra i più spettacolari del mondo come Place Vendôme in Qatar oppure lo Shihua Park in Cina, dove si potranno praticare diversi sport tra cui, pensate, il paracadutismo. Tra contrazione delle nuove aperture, riposizionamenti e acquisizioni di grandi gruppi, il settore in Italia è in profonda trasformazione alla ricerca delle ricette più innovative. In questa chiave abbiamo scelto di raccontarvi Scalo Milano, un nuovo concept che aprirà nel secondo semestre 2015, come ci ha anticipato Filippo Maffioli di Promos, che è anche presidente della commissione consultiva Factory Outlet del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali. Scalo Milano è un'operazione nuova, è un'operazione che un gruppo imprenditoriale bresciano ha pensato, ha ideato 10 anni fa e che finalmente a breve vedrà la luce. Novità significa fashion, food e design per la prima volta insieme, in una struttura con più di 300 negozi collegata direttamente al centro di Milano con Metropolitana. Ecco, voi vi ponete come nuovo punto di riferimento non solo per lo shopping ma anche per il territorio. Ecco, in che cosa consiste questo dialogo con il territorio? Voi vi definite City Style come concept. Allora, Scalo Milano ha l'ambizione per la prima volta di diventare un collettore commerciale e quindi di avere una proposizione commerciale innovativa rispetto ai tre mondi che citavo prima, ma c'è un secondo livello che la struttura commerciale di Scalo svilupperà, che ha nella cultura, nel legame col territorio, nell'attenzione al verde i suoi punti forti. La cultura significa che all'interno della struttura creeremo e attiveremo una scuola e quindi l'attenzione nostra nei confronti della formazione sarà molto importante. La cultura significa anche che Scalo Milano vuole sviluppare all'interno della struttura stessa un primo progetto chiamato Piazza d'Artista, dove artisti contemporanei esporranno all'interno del mall i loro progetti e quindi la volontà che diventi anche una piattaforma culturale concreta e i nostri consumatori già dall'anno prossimo la potranno toccare con mano. Come riflessione finale, quali sono gli elementi su cui si concentra in questo momento il dibattito per il settore? Abbiamo detto che sta cambiando molto anche il concetto stesso di centro commerciale, la sua fruizione da parte del consumatore. Allora, l'attenzione effettivamente si sta spostando su momenti di aggregazione e momenti che non sono più necessariamente solo legati al fashion. Il fashion tradizionalmente caratterizza i centri commerciali che noi oggi visitiamo e che noi oggi vediamo tutti i giorni. Oggi grazie anche ad operazioni famose, fortunate, e vale la pena anche citarle come sono state Italy ed altre che sono partite dal territorio nazionale, si sono sdoganati dei temi, in primis quello del food che oggi è molto interessante, molto di attrattiva e caratterizzato dalla presenza di molti operatori nuovi e di livello. E quindi questo è uno dei driver sicuramente che tutti gli sviluppatori stanno tentando di interpretare al meglio. Un altro dei driver è l'attenzione alla famiglia, l'attenzione ai servizi e quindi l'idea è quella di proporre operazioni commerciali che siano anche all'insegna dei servizi, della sostenibilità e dell'attenzione alla famiglia e dell'aggregazione nel contempo. Bikeology. 14 itinerari ciclabili di lunga percorrenza per un totale di 70.000 chilometri, di cui 40.000 già esistenti attraverso tutta Europa. È Eurovelo, la rete ciclabile europea, un progetto cofinanziato dall'Unione Europea che interessa l'Italia per una lunghezza di circa 1.000 chilometri. Ospite questa settimana di Bikeology, la nostra finestra sul mondo delle due ruote, Antonio Dalla Venezia, responsabile del settore cicloturismo di FIAB, che è la Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, FIAB è il punto di riferimento nazionale di Eurovelo. Qual è l'anima del progetto? Quali sono gli incroci con l'Italia? Beh, se noi siamo referenti nazionali di questo progetto, che è un progetto che parte ormai da una lunga gestazione di 10 anni circa ed è nato in seno alla Federazione Europea dei cicloturisti, e interessa l'Italia per oltre 5.000 chilometri, di cui 1.000 esistenti. Gli incroci in Italia sono importanti perché gli itinerari previsti in Italia, che sono la Francigena, la ciclovia del Po e la ciclopista del Sole, sono tre itinerari che tagliano l'Italia nord a sud, est a ovest, e quindi che interessano quasi tutte le regioni italiane. Per quanto riguarda i percorsi europei, ecco, citiamone qualcuno, diamo l'idea dell'esplorazione a due ruote che si può fare in Europa. Beh, ma sono dei lunghissimi itinerari di qualche migliaia di chilometri che tagliano proprio l'Europa in lungo e in largo. Ricordo quella dell'Europa centrale, che parte dalla Francia e finisce dall'altra parte dell'Europa, in Ungheria, oppure quella che parte da Capo Nord, che interessa la Danimarca, la Germania. Sono tutti itinerari appunto di 3-4.000 chilometri che alcune realtà europee stanno mettendo a punto. Lei parlava appunto di 40.000 chilometri esistenti, purtroppo questi 40.000 sono quasi tutti nelle nostre nazioni confinanti. Sono strade, sono mete, sono percorsi da comunicare, perché in pochi li conoscono. Sono percorsi da comunicare, sono ciclovie importanti che garantiscono sicurezza per chi li percorre, quindi con un grado di qualità molto elevato, con degli standard qualitativi elevatissimi, e sono presenti poi in alcuni siti, quello ufficiale di Eurovelo sicuramente, ma anche il nostro portale di Bici Italia riporta alcune informazioni su questa rete europea, appunto, che diciamo prima interessa anche in parte l'Italia. Per tutti i livelli? Per tutti i livelli, sì, sicuramente, perché ci sono dei parametri che Eurovelo ha determinato e sono parametri che in qualche maniera accolgono tutti quelli che vogliono andare in bicicletta. Non sono ciclovie pensate per cicloamatori o viaggiatori esperti, ma sono pensati per un parametro di tipo familiare. Essere e avere. Focus sui trend. Trasformare gli oggetti di uso comune in strumenti musicali. Questa è la missione di Johnny Random, artista americano che sul web si autodefinisce compositore di suoni e designer di musica. Bespoken, ne abbiamo appena sentito un assaggio sulla nostra pagina Facebook, trovate poi il video del making of, è il suo primo singolo, un brano musicale composto utilizzando come strumenti i pezzi componenti di una bicicletta. È la prima traccia, l'abbiamo voluta individuare così, della tendenza di cui vogliamo parlare oggi, una tendenza che vede protagonista il suono e la sua valorizzazione attraverso una vera e propria scoperta della voce e delle cose, una voce spesso nascosta. Il sound design oggi guarda al suono non più come a un elemento artistico e decorativo, bensì come a un'esperienza di accompagnamento della vita e della sua quotidianità. Ne parliamo, come sempre, con i ricercatori di Future Concept Lab, Sabrina Donzelli, ben ritrovata. Ciao a te, un saluto a tutti. Partiamo dal segnale più evidente, il presente dell'industria discografica e della sua fruizione, lo streaming. Sì, lo streaming è veramente qualcosa che ormai fa parte del nostro quotidiano. Si chiama streaming il presente per quanto riguarda la musica, la nostra colonna sonora personalizzata, personalizzabile. aggiornata e modulabile a seconda del nostro desiderio, contesto e occasione. Come sai, i nomi in ballo sono notissimi, sono diversi, da Spotify, da Deezer, Apple, Xbox Music, fra gli altri, ma YouTube rimane uno dei servizi di primo riferimento quando si cerca un brano. E proprio in questi giorni Google, che aveva acquistato YouTube quando ancora era una startup, rilancia questa vocazione, quindi amplificando il focus sulla musica e lanciando la versione beta di un'opzione premium a pagamento, quindi chiamata Music Key, quindi la chiave musicale, con l'idea di ottimizzare l'esperienza di ascolto personale condivisa sia su computer che su dispositivi mobili. Con Music Key gli utenti potranno mettere insieme e condividere playlist divise per categorie, generi, tipologie sonore, ma non mancheranno le tendenze con i brani più rappresentativi, come sempre scelti dal flusso social. Ecco, a fianco di tutto questo, la potente indicizzazione di Google rende possibile accedere anche a dei contenuti, informazioni, testi, rimandi ad altri brani, varianti, interpretazioni, per rendere questo servizio premium una sorta di jukebox intelligente, però diciamocelo, anche un modello di business intelligente. Ecco, un servizio che garantisce tantissime funzionalità, tantissime chicche, anche la riproduzione offline ad esempio. E tutto questo non solo per palati musicalmente raffinati, ma per tutti noi, ecco, che poi di fatto viviamo la musica in ogni momento della giornata, non solo per un fatto di gusto, ma proprio come presenza. Ecco, questo è il segnale più evidente di scenario, diciamo così. Quali sono invece i segnali più nascosti che state mappando nel mondo dei consumi? Guarda, ti faccio un paio di esempi. Parto dall'Italia, un prodotto italiano, direi italianissimo fin dal nome, iTalk, no? È un gioco di parole fra l'high tech e un rimando, un suono che ci porta a qualcosa di naturale, ma in effetti si tratta sì di alta tecnologia, ma anche di un lavoro fatto interamente con il legno, sul legno. iTalk infatti è un amplificatore acustico naturale per iPhone, iPod e tutti gli altri tipi di smartphone, e senza l'aiuto di batterie e circuiti può amplificare l'uscita audio del 30%. L'idea di base di questo amplificatore e dei suoi modelli è già nel nome, infatti nel dialetto mantovano TOC vuol dire pezzo, pezzo di legno. Dico dialetto mantovano perché è un'azienda di Curtatone in provincia di Mantova, è un prodotto nato da un'idea geniale di due fratelli. Praticamente è una tecnologia che scompare completamente all'interno di un pezzo di legno d'abete levigato a mano, praticamente un pezzo unico, una scultura totalmente funzionale, anche ecosostenibile, e ci è sembrata un'idea interessante da segnalarvi. E a fianco di un altro esempio che viene dal mondo dell'abbigliamento, abbiamo una proposta di comunicazione che fa parlare i capi di abbigliamento, ciò che indossiamo ogni giorno. L'idea viene da COS, stiamo parlando del colosso svedese H&M per intenderci. COS è la linea di abbigliamento più orientata al design con la sua catena di negozi. Hanno proprio lanciato nel mese di ottobre un video intitolato The Sound of COS, quindi come risuona, come parla, che musica hanno gli abiti di COS. Praticamente i due registi olandesi Engelbers e Plug hanno realizzato un cortometraggio brevissimo, 2 minuti, per invitare lo spettatore alla scoperta dei tessuti utilizzati dal marchio. E quindi in meno di 2 minuti hanno riprodotto in modo fantastico, anche innovativo, i suoni prodotti dalle persone mentre si vestono, adottando le tecniche tradizionali dei rumoristi e utilizzando oggetti di uso comune come vasi di fiori, ombrelli, il sale, catene in acciaio. Molto curioso ma anche invitante. Postiamo anche questo sulla nostra pagina Facebook perché è veramente interessante da vedere. Dicevamo in apertura di un'attenzione particolare quasi alla voce nascosta delle cose. Ecco, è un po' l'elemento che unisce i segnali che state evidenziando. Sì, ci sembra molto interessante portare l'attenzione alle cose di ogni giorno, le cose che ci fanno sentire la propria voce, che fanno sentire proprio come un loro messaggio, nascoste proprio dall'uso quotidiano. Quindi anche un invito all'ascolto, anche nel senso di prendersi un tempo per ricollegarci a ciò che facciamo, ciò che tocchiamo, utilizziamo, scegliamo. Ovviamente nell'ambito della creatività e dell'arte sono diverse le sperimentazioni. Vorrei portarti due esempi dalla Turchia, di sperimentazione musicale. È stato lanciato recentemente un nuovo strumento musicale da un musicista turco, Görkem Sen, uno strumento che si chiama Yay Bahar. È totalmente acustico, le vibrazioni prodotte vengono trasformate in suono da membrane, da particolari membrane che si muovono su molle a spirale, quindi ne risulta un'esperienza d'ascolto unica con un suono direi ipnotico, un'esperienza immersiva. Un altro progetto, sempre dalla Turchia, musicalmente visionario e sperimentale, è quello che è stato lanciato già 2 anni fa, ma continua come progetto perché promosso dalla Bilgi University di Istanbul, dal dipartimento che lavora su musica e cinema. In questo caso il progetto si chiama Sound Picnic, anche qua un invito ad assaporare, no? Come in un picnic suoni ed esperienze sonore diverse. Gli strumenti anche qua sono direi visionari, come fossero usciti da una bottega d'artigiano, ma anche dal talento di uno scienziato pazzo, con archetti che scorrono lungo corde metalliche, ma anche strumenti realizzati con oggetti di uso comune come attaccapanni, bastoni da passeggio. Sabrina, possiamo leggere questa tendenza nel quadro più generale di un'attenzione alla polisensorialità che si riscontra in questo momento nel mondo dei consumi, così come in quello dell'arte? Direi di sì, perché come tutto quello che parla ai sensi si ricollega all'esperienza di ciascuno di noi ed è anche più avvolgente laddove all'udito si accosta all'esperienza della vista ed altro ancora. Quindi un'esperienza, come dicevo prima, immersiva. Concludo con questo caso di una mostra attualmente in corso a Parigi, un'installazione alla Fondazione Cartier per l'arte contemporanea per celebrare i 30 anni della fondazione. In questo caso dalla voce delle cose passiamo alla voce degli ambienti, dei muri, dei vetri, delle strutture in cui abitiamo, che spesso sembrano essere delle scatole vuote, ma che anche in questo caso hanno qualcosa da raccontarci, da farci sentire. Proprio questa installazione si chiama Ballade pour un boîte de verre, ballata per una scatola di vetro che è questa architettura maestosa della Fondazione Cartier, un progetto di Jean Nouvel, che per la prima volta viene utilizzato come materia prima per un lavoro artistico. Un grande ambiente, tutto l'ambiente del piano terra, dove vengono invitate le persone a vivere questa esperienza di suoni, di immagini e quindi attraverso degli stimoli, delle perturbazioni in qualche modo sia sonore, visive, percettive, inducono a un senso di straniamento spaziale, resettando di fatto i codici convenzionali della nostra relazione con lo spazio e aprendo a nuove possibilità di esperienza. Questo sicuramente molto interessante anche da questo punto di vista della musica e il quotidiano. Il consumautore. Ci ha raggiunto in studio come sempre per la riflessione finale Francesco Morace. Ciao Francesco. Buongiorno Maria Luisa e gli ascoltatori. Oggi mi hai proposto un tema che, lo devo confessare, mi affascina moltissimo. Ci si potrebbe fare un'intera puntata, magari la facciamo anche, Francesco. Ma volentieri. Prossimamente. Com'è cambiata la memoria ai tempi del web, della rivoluzione digitale, del qui e ora? Tu ne dai una definizione molto bella. La real life memory, e questo è davvero un cambiamento paradigmatico, e dobbiamo osservare i nostri figli, i ragazzi, per poterlo capire. La memoria per loro è in tempo reale, la memoria è orizzontale, non è verticale come per noi. Per noi memoria coincide col passato, per loro memoria coincide con l'esperienza che stanno vivendo e con un'intelligenza che è di connessione, quindi mettere insieme senza ragionare sul tempo elementi diversi che compongono una sorta di puzzle esistenziale. Sul web ci sono moltissimi progetti virali, partecipati, artistici, io mi ci perdo. Attraverso i fotomontaggi vengono ritratti, per esempio, figli e genitori, ragazzi insieme. C'è questa esigenza di annullare il tempo e nello stesso tempo di comunicarla, di condividerla. Assolutamente, ed è una forma nuova di memoria, ecco, non è la superficialità che tanti hanno immaginato di un mondo senza radici. No, è un'idea di esperienza che è molto più a portata di tutti e che si vive nel presente. C'è una memoria del presente e qualcuno ha definito questa generazione la Instagram Generation, perché l'immagine fotografica di ciascuno di noi diventa la base di questa memoria. Ecco, recentemente ho intervistato, lo abbiamo già proposto in Essere Avere qualche settimana fa, Jason Silva, che è un futurologo, videomaker, grande divulgatore dell'innovazione. Proprio in relazione alla cosiddetta Instagram Generation mi ha citato la teoria dello psicologo premio Nobel Daniel Kahneman, secondo cui i millennials vivono il presente come una sorta di memoria anticipata. È un'immagine bellissima, molto efficace. Sì, è molto efficace. Ricordiamo anche che Daniel Kahneman è colui il quale ha vinto il Nobel dell'economia, lui è uno psicologo, proponendo la teoria della felicità. Quindi tutto questo è legato sicuramente a un presente felice che diventa memoria da raccontare proprio perché viene condiviso. Grazie Francesco Moracci, a domenica prossima. Grazie a voi. Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, riascoltabile e scaricabile come sempre dal nostro sito radio24.it, sezione programmi, la trovate anche sulla nostra pagina Facebook insieme a tutti i contributi aggiuntivi, link, immagini e video, in attesa di risentirci domenica prossima. Grazie in regia a Paolo Corleoni, un saluto da Maria Luisa Pezzali.